Dolci fiocchi d'avena. Una volta, in una piccola città, vivevano due sorelle. I loro nomi erano Jane ed Ella. Jane era la maggiore e molto intelligente, ma era anche molto arrogante riguardo alla sua intelligenza. Pensava di essere la più intelligente di tutte e alzava il naso guardando tutti dall'alto in basso. La più giovane, Ella, era una ragazza molto gentile ed era dolce con tutti. Ma sebbene amabile, era estremamente smemorata. Le due sorelle non si erano mai preoccupate di cambiare e per questo sarebbero sempre rimaste diverse. Jane ed Ella erano molto povere. Quasi ogni sera rimanevano a stomaco vuoto. Potevano considerarsi fortunate di avere anche solo un po' di pane e formaggio da mangiare. Un giorno Ella era seduta al tavolo e guardava il cielo, quando all'improvviso la sua pancia iniziò a borbottare molto forte. Oh, mi sento così affamata. Non mangio abbastanza da giorni. E anche adesso non c'è niente da mangiare. Forse se esco a fare una passeggiata mi dimenticherò di quanto ho fame. Quindi andò a fare una passeggiata nel bosco, portando solo una fiaschetta d'acqua. Continuò a camminare ancora e ancora e presto dovette fermarsi e riposare perché era molto stanca. Oh, sono così stanca. È così assetata. Dovrei bere un po' d'acqua. Ma mentre stava per bere, una vecchia apparve di fronte a lei. Era vestita con una tunica scura ed era così spaventosa che ella stava per scappare. Figlia mia, per favore, mi daresti dell'acqua? Ho molta sete e non bevo da due giorni interi. La vecchia tossì così tanto che, anche se era molto spaventosa, ella si sentì così dispiaciuta per lei che il suo cuore tenero cedette. Certo, ecco, bevi quanto vuoi. Spero che ti basti. Oh, quanto sei gentile. Grazie mille, cara. Lascia che ti ripaghi per la tua gentilezza. E in un'esplosione di luce, la vecchia si trasformò in una bellissima giovane strega. Ella fu molto sorpresa da ciò che vide. Wow! Ora, dimmi cosa desideri e te lo darò, qualunque cosa sia. Così ella le raccontò di quanto fossero povere e di come rimanessero a stomaco vuoto per giorni. Capisco, ottimo. Quando torni a casa troverai una pentola sul tavolo. È una pentola magica. Magica? Sì, una pentola magica. Dovrai recitare: cucina, piccola pentola, cucina! E cucinerà tutti i dolci fiocchi d'avena che tu e tua sorella vorrete. In questo modo tu e tua sorella non avrete mai più fame. E quando avrete finito di mangiare sarete soddisfatte di fermati piccola pentola, fermati, e smetterà di cucinare. Che meraviglia! Tornerò a casa immediatamente. Aspetta, prima di andare devo dirti un'ultima cosa. Per tenere questa pentola magica per sempre devi guadagnartela. Se non fai nulla per meritartela, allora svanirà dalle vostre vite e avrete per sempre fame. Ricorda queste parole o finirai nei guai. Lo farò. Oh, grazie, gentile strega. Andrò a casa subito. Mangia bene, mia carella. Aspetta, come fai a sapere il mio nome? Ma la strega era ormai scomparsa e non si vedeva da nessuna parte. Ella tornò presto a casa e trovò la pentola sul tavolo, proprio come aveva detto la strega. Jane era in piedi e la fissava con curiosità. Ella, hai portato tu questa pentola? Sì, l'ho fatto. Sono fantastica. Fantastica? Fantastica sarà il momento in cui troverai qualcosa da cucinare nella pentola. Jane, sarai molto felice di sapere che questa pentola è magica e ci nutrirà per sempre. Mia povera sorella, so che la mancanza di cibo ci sta facendo dimagrire molto, ma sembra che anche il tuo cervello si stia rimpicciolendo. Ah, te lo dimostrerò. Ella guardò la pentola e disse: cucina, piccola pentola, cucina. Non appena ella disse l'incantesimo, la pentola iniziò a gorgogliare e a preparare da sola i fiocchi d'avena caldi. Jane rimase estremamente stupita ed ella guardava con gioia. In un attimo, i fiocchi d'avena furono pronti e l'aroma riempì la stanza rendendo le ragazze più affamate che mai. L'assaggiarono. Erano davvero i migliori fiocchi d'avena che avessero mai mangiato. In questo modo mangiarono ogni giorno a sazietà e non ebbero più avuto fame. Ma non se ne stancarono mai, perché erano molto gustosi. Ma un giorno ella decise di uscire. Devo ricordare di dire a Jane l'incantesimo finale per la pentola prima di andare. Oh, ma quali erano le parole? Che cosa c'è? Perché mi stai fissando così? Beh, c'era qualcosa di importante che dovevo dirti. Qualcosa di importante? Quale cosa importante potresti dirmi? Sei molto cattiva. Bene, non ti dirò niente. Scommetto che hai dimenticato cosa mi volevi dire. Io non l'ho dimenticato. Me ne vado. Quando se ne andò, ricordò l'incantesimo. Oh, adesso mi ricordo. Beh, non importa, dato che ha già mangiato a colazione. Sono sicura che non avrà fame di nuovo. Dopo un po', Jane iniziò ad avere fame. Ho voglia di mangiare quei deliziosi fiocchi d'avena. Ella non è qui, quindi sono tutti per me. Andò alla pentola e, battendo le mani con allegria, recitò felicemente l'incantesimo. Cucina, piccola pentola, cucina! E immediatamente iniziò a cucinare i fiocchi d'avena caldi che Jane amava così tanto. Li annusò avidamente e, una volta cotti, li mangiò tutti. Ah, erano così deliziosi! Oh, sono piena ora. Oh, è meglio che la pentola smetta ora. Qual era l'incantesimo? Smetti di cucinare, pentola! Ma quelle non erano le parole giuste. Ella non aveva mai detto a Jane l'incantesimo per fermare la cottura. Oh no! Cosa faccio? Basta! Niente più fiocchi d'avena! Smettila, stupida pentola! Non curante delle sue parole, la pentola continuò a preparare caldi fiocchi d'avena. La povera Jane continuò a urlare contro la pentola, ma senza alcun successo. Dopo un po', ella tornò a casa. Sono certa che non sia successo niente. Cosa potrebbe essere accaduto per essermi solo dimenticato un incantesimo? Cosa viene fuori da sotto la porta? E sento anche odore di fiocchi d'avena? Ella andò a guardare alla finestra e vide uno spettacolo terribile. Tutta la casa era piena di dolci fiocchi d'avena appiccicosi. I vasi e le sedie vi nuotavano dentro. Oh, che disastro! E dov'è Jane? Fu allora che vide la povera Jane seduta su un tavolo che affondava lentamente sempre di più nei fiocchi d'avena fumanti. Ah! Oh oh! Cosa faccio? Perché ella non torna? Jane! Jane, sono qui! Cos'è successo? Ella, mia dolce sorella, recita l'incantesimo e impedisce all'orribile pentola di produrre ancora fiocchi! Basta, piccola pentola, basta! E alla fine, la pentola magica smise di gorgogliare, i fiocchi d'avena smisero di strabordare e Jane ed ella sospirarono sollevate. Grazie al cielo che è finita! Ma la casa è ancora in un tale caos! Mi dispiace di aver dimenticato l'incantesimo oggi. È tutta colpa mia. No, anch'io ho colpa. Avrei dovuto chiedere ed ascoltare cosa avevi da dire. Sono stata troppo arrogante e cattiva. Ma cosa facciamo, Jane? La nostra casa è piena di fiocchi d'avena e pulirla richiederà giorni. Jane pensò per un po' e poi disse: ci sono così tanti poveri in questa città. Perché non condividiamo con loro un po' di fiocchi d'avena? Oh, sì! Scommetto che ci sono molte persone che muoiono di fame. Ameranno i caldi fiocchi d'avena fumanti. E così ella andò a prendere tutte le persone povere ed affamate dalle loro case e dalle strade. Tutti, abbiamo deliziosi fiocchi d'avena da dare a tutti voi. Sono sicura che li adorerete. Prendete ciotole e cucchiai e venite a mangiare. E arrivarono tutte le persone con occhi brillanti e scintillanti. Jane da dentro riempì le scodelle ed ella le servì fuori a tutte le persone. Tutti mangiarono i fiocchi d'avena con gusto. Grazie, Ella e Jane. Non mangiavo da 5 giorni. Ve ne siamo davvero grati. Presto la casa fu vuota. Non c'erano più fiocchi d'avena da nessuna parte. Jane era uscita dalla finestra e ora era al fianco di Ella. Vedendo i volti felici e i sorrisi luminosi di tutte le persone, Ella e Jane si sentirono molto felici. Ella, è molto bello preoccuparsi di più degli altri. Lo so, vero? Avevamo già mangiato così tanti fiocchi d'avena per così tanti giorni, ma non li abbiamo mai condivisi. Condividiamo i fiocchi d'avena con i poveri e i bisognosi. Diamoli da mangiare ogni giorno in modo che non abbiano più fame. Così ogni giorno Jane ed Ella uscivano per le strade e nelle case dei poveri e davano loro da mangiare gustosi fiocchi d'avena caldi. Questo andò avanti per molto tempo, fino a quando uno di questi giorni, un vecchio mendicante, andò da loro. Era vestito con abiti strappati ed Ella e Jane lo guardarono mentre si avvicinava a loro. «Mie care figlie, sareste così gentili da prestarmi la pentola che prepara questi fiocchi d'avena? Vengo da molto lontano e i miei nipoti sono malati. Non ho nulla per sfamarli. Posso portarla a casa con me?» «Cosa facciamo, Jane? Se prende la pentola, avremo fame di nuovo.» «Va bene, abbiamo mangiato abbastanza e sarebbe peggio per i bambini se non mangiassero affatto.» Quindi Jane si rivolse al vecchio mendicante e sorrise. «Signore, puoi portare la pentola ai tuoi nipoti e dar loro da mangiare. Spero che si sentiranno meglio.» E subito il vecchio mendicante si trasformò nella strega. «Oh, la strega dei fiocchi d'avena! Sono molto impressionata da voi. Avete imparato a preoccuparvi e a pensare agli altri prima di voi stesse. Avete anche aiutato i poveri e gli affamati di questa città.» «Questo significa...» «Sì, significa che potete tenere la pentola. Ve la meritate.» «Sì, dolci fiocchi d'avena ogni giorno!» E anche dopo, Ella e Jane continuarono a nutrire i poveri e gli affamati ogni giorno. Erano contente di vedere i sorrisi sui volti felici delle persone. E questo, a sua volta, rendeva le persone molto felici.